Buonasera, benvenute e benvenuti alla 17ª puntata di Cabaret Voltaire, in cui ho deciso di riospitare Giuseppe Romano con un'altra mostra che si intitola Il tempo dissacrato, che è parte di un festival che abbiamo organizzato qui in Exalge, che si chiama Lento Festival e ha proprio l'intento di contrapporsi a questo mondo che è sempre veloce, che diciamo ci costringe un po' in un sistema che ci detta un ritmo veloce e forse un po' costrittivo, proprio con l'idea invece di proporre dei giorni in cui cerchiamo di vivere il tempo più calibrato su ciascuna di noi o ciascuno di noi, e rispettando un po' il nostro corpo, il nostro tempo, e per creare appunto un'occasione per rallentare. In quest'ottica, appunto, l'idea di proporre la mostra di Giuseppe, mi è venuta in mente perché, appunto, rispetto alla mostra che abbiamo fatto l'anno scorso, che proponeva una serie di ritratti, invece in questo caso abbiamo una serie di dipinti che raccontano un po' delle scene della vita di Cristo, rivisitate appunto in un tema un po' dissacrante. Direi, se posso esprimere questo giudizio, che la figura di Cristo e la storia di Cristo forse diventano un po' una metafora per rientrare invece in una dimensione più introspettiva e che analizza più che altro un processo di elaborazione di un dolore. Questo perché, come già avevamo detto l'altra volta, appunto Giuseppe è un artista autodidatta che ha cominciato a dipingere proprio per elaborare un lutto che gli è accaduto 9 anni fa. E quindi direi che questi dipinti, forse ancora di più rispetto a quelli della volta scorsa, rappresentano proprio tutti gli stadi di elaborazione del dolore e della sofferenza. Ma direi che, come dire, poi lascerei a Giuseppe la parola per raccontare meglio il suo progetto. Ci tenevo a dire che ieri, appunto, un altro evento che abbiamo ospitato qui in Exalge, gestito da Lollocat, che si chiama Club Chimere ed è un altro podcast di Radio Exalge, ha ospitato una puntata dedicata appunto all'analisi del tempo e dello spazio, e Lorenzo ha deciso di invitare Arianna Jakubowski, con la quale appunto, che è una filosofa e con la quale hanno un po' analizzato, diciamo, l'idea del tempo di Kant e di Nietzsche. E per me è stata una rivelazione perché io ho sempre odiato Nietzsche. Invece ho avuto, come dire, un'epifani per cui invece mi è tornata voglia di rileggerlo e ristudiarlo, forse perché appunto attraverso le parole di Arianna ho un po', e anche di Lorenzo ovviamente, mi sono ritrovata molto nell'idea di tempo che hanno proposto e quindi diciamo che raccontavano il fatto che appunto invece di vivere il tempo in una maniera lineare, l'idea, diciamo, che in qualche modo ci racconta Nietzsche, è quella di un tempo appunto che è circolare e quindi in realtà mi è piaciuta tantissimo. A un certo punto parlavano della lingua Swahili e dicevano che, se non mi sbaglio, c'è Lorenzo in sala che potrebbe benissimo intervenire e correggermi, però che, come dire, loro hanno l'idea anche proprio nel linguaggio di parlare, diciamo, del futuro usando il passato, per il fatto che il passato è qualcosa che noi possiamo conoscere e di cui appunto abbiamo memoria e che di fatto è qualcosa che possiamo continuare a riscoprire nel futuro. Al contrario, l'idea del futuro, tra l'altro più cristiana, più illuminista, è quella invece di un futuro ignoto e quindi di qualcosa che appunto è distante da quello, cioè appunto è qualcosa che non conosciamo, no? E invece questa idea di ritornare sui propri passi e appunto di riscoprire il proprio futuro attraverso, cioè appunto direi l'espiazione del passato, nel tuo caso, mi sembrava molto coincidente appunto anche con l'idea che di fatto proponi tu sia nella tua arte che forse appunto nella tua idea anche di tempo. Sì, io credo che sia un concetto che, se me lo permetti, al quale posso già agganciarmi perché è interessante. Io appunto sono filosofi che non mastico, però cioè, mi colpiva il fatto che specialmente questa concezione non lineare del tempo, come dici tu, razionalistica, illuministica, è qualcosa che sento personalmente per quanto riguarda l'effetto che nel mio caso il lutto ha avuto proprio su quello che io personalmente percepisco come scorrere del tempo, che appunto proprio in quel momento di 9 anni fa, un momento che tra l'altro è rappresentato in uno dei dipinti di stasera, si è, come dice appunto il depliante, si è arrestato, però non è corretto forse dire che si è arrestato, ha cominciato a svolgersi in modo diverso, quindi appunto io ho proprio molto in mente questa immagine di un tempo che non scorre più come un filo, una collana di perle, per dirla con, non mi ricordo più quale filosofo novecentesco, che appunto che tu scorri e dal quale ti allontani, no, dai momenti passati, ma invece piuttosto restare fermo, accostato a quell'evento traumatico, e quindi questo filo, questa collana continua a scorrere ma verso il basso, okay, creando questa lacuna, e tu rimani lì in moto ed immobile di fianco a questo evento che quindi è sempre costantemente presente nella tua coscienza con tutte le implicazioni psicologiche del caso. No, ma infatti una cosa che appunto mi stupiva ieri, e forse qui faccio una parafrasi delle parole di Arianna, però mi sembra che a un certo punto, parlando di Kant, interpretasse la sua idea di tempo e anche di spazio soprattutto come qualcosa di caotico e più legato al, come dire, a questa idea della paura e della sofferenza e dello stare nella paura e nella sofferenza, anche come prospettiva di come dire, andare avanti nel futuro. E non so, a me mi è piaciuto moltissimo perché mi sembra che non sia appunto, cioè anche nell'ottica di proporre questo festival lento, secondo me non mi sembra un caso, ecco, che magari alcuni degli eventi che comunque sono stati proposti in questi giorni comunque si ricolleghino un po' a questa dimensione introspettiva, non necessariamente felice, ma forse anche che riesca a entrare in contatto con una dimensione più appunto di dolore, di sofferenza, proprio perché penso anche che la velocità e la società in cui viviamo molto spesso non solo non ci dia gli strumenti per affrontare questa parte delle nostre emozioni, ma neanche ce lo conceda, come se non ci fosse uno spazio dove poter stare male, cioè tutti rifugiamo questo e non abbiamo la capacità di starci dentro un attimo e forse di rispettare quel tipo di tempo. E quindi anche la scelta appunto di parlare della sofferenza di Cristo e in qualche modo in realtà poi della tua sofferenza, non so, mi sembrava adatto per riproporre forse appunto anche un'idea di ciclicità del tempo un po' diversa. Esatto, ed è anche questa diversità nel concetto è qualcosa a cui almeno personalmente mi è stato facile accedere proprio mediante questa spiritualità che non è quella cattolica, come dici tu, che prescrive appunto una linearità che va dalla creazione del mondo alla salvezza, ok, del giudizio universale, bensì appunto io che cresco appunto religioso e resto spirituale, specialmente nel momento del lutto, quindi quando una persona scompare, sento di aver accesso proprio a una dimensione temporale in cui il passato e il futuro appunto si informano a vicenda, e quindi se tu provi nella tua spiritualità a cercare di stabilire, continuare, recuperare un dialogo con una persona che non c'è più o è in un altro piano di esistenza, ecco che lì effettivamente i confini sfumano, perché quello che ti è successo informa quello che ti succederà e viceversa. Ed è quindi sì, un dialogo in cui appunto i confini spazio, ma soprattutto temporali, si fanno appunto più confusi e alternativi rispetto alla concezione invece lineare che abbiamo comunemente. Per tornare a noi, ti chiedo forse di raccontarci appunto rispetto alla mostra che hai proposto l'altra volta, com'è stata la tua evoluzione, cioè cosa ti ha portato appunto ad approcciarti a questo lavoro, se vuoi raccontarci appunto un po' di che cosa si tratta e che cos'è il tempo dissacrato. Come hai detto tu, allora l'incipit di questi due filoni pittorici che si possono considerare paralleli è lo stesso, appunto il momento del trauma, c'è questa decisione in me, come ripeto spesso appunto, di passare dall'essere soltanto un assiduo disegnatore all'essere appunto un pittore a tutti gli effetti, o quantomeno di imparare a dipingere, ecco, che prima non facevo. E chiamo questi due filoni paralleli, lo sono in parte, in realtà l'ultima volta io ho esposto questi ritratti che nella mia testa erano opere di studio, le avrei volentieri intitolata Premesse pittoriche la mostra, perché in realtà onestamente non le consideravo avere un'autonomia artistica che permettesse di esporle. L'ho fatto lo stesso, ho fatto finta di nulla, perché comunque c'era, creavano un corpus con una sua identità, c'era una storia dietro, che è quella di cui abbiamo parlato insieme, però effettivamente le ho sempre viste come un modo di prendere confidenza col medium. Certo, un modo poi, come abbiamo detto ampiamente, di insomma elaborare rapporti con le persone, rapporti con la femminilità, con la maternità, e va bene, ma tecnicamente in realtà un modo per acquisire confidenza con il mezzo pittorico, quindi con pastello prima, poi acrilico e infine olio. E nel momento in cui effettivamente poi arrivo a dipingere con i colori a olio, quindi si parla di 2019, ecco che subito, sin da subito, mi butto sulle scene sacre. Quindi in questa sala i dipinti sono tutti molto recenti, a parte la Madonna con Bambino, quella più di formato minore, che è del 2019 ed è stato effettivamente il primo dipinto a soggetto sacro che ho fatto, infatti ci sono legato anche per quello, e appunto è stato un po' l'esordio di quella serie di dipinti che dentro di me avevo sempre coltivato come l'idea di insomma una serie, un filone che avesse più senso per me affrontare, sia perché la vedevo come qualcosa di più dignitoso e di più in linea con una concezione, diciamo, standard di lavoro artistico, visto dal mio punto di vista, che insomma amo il metodo rinascimentale, e perché comunque sia, appunto, avremo modo di ripeterlo più e più volte, il mio background e la mia formazione è stata quella in una famiglia non cattolica, cattolicissima, quindi con tutte le conseguenze del caso, frequentando le scuole insomma di questo orientamento, e coltivando in me per moltissimi anni una fede indiscussa e indiscutibile, che poi ho messo in discussione senza cessare di essere spirituale, ma certamente non più ecclesiastico. Questo per dire che sebbene appunto quando io ho cominciato a dipingere avevo già messo ampiamente in discussione questa certezza di fede, in realtà è un lessico che mi ha sempre accompagnato, e quindi appunto quando poi si è posta la necessità di esprimere una mia interiorità, una mia sofferenza, un mio messaggio, i mezzi, le immagini, le scene, le storie su cui spontaneamente mi sono rivolto sono state queste qui, delle storie evangeliche, specialmente delle storie del Cristo e specialmente delle storie della passione del Cristo. E perché, cioè, mi chiedo appunto se c'è una dimensione, qual è la dimensione che a te interessa di più in questo senso, cioè se è la dimensione religiosa o simbolica o più narrativa, nel senso che appunto per chi è qui e può vedere i quadri dal vivo, chiaramente non è una, appunto, non direi che assomigli a Michelangelo quanto più a Bacon o non so, a Otto Dix, cioè comunque c'è ovviamente appunto un tema dissacrante del soggetto religioso, e quindi rifacendomi anche al commento che ho fatto all'inizio, mi chiedo se c'è un, cioè la scelta appunto immagino non sia stata casuale, no? Anche di questi specifici soggetti, perché si prestano anche abbastanza a raccontare forse una storia di espiazione del dolore. Mi riaggancio subito alla parola dissacrante per appunto apportarle una piccola correzione, perché che si riaggancia poi alla tua domanda. Perché il mio intento non è certamente quello di essere dissacrante o di produrre dipinti dissacranti, bensì piuttosto dissacrati, cioè dipinti appunto a soggetto religioso, soggetto sacro, in cui la dimensione del sacro è stata strappata. Un dipinto dissacrante per me è un dipinto in cui c'è una ricerca di provocazione, che è una cosa che, voglio dire, è legittima, però è stata fatta ampiamente, meglio di quanto non sarei in grado io, e più che altro non mi interessa fare. Che i miei dipinti siano dissacrati, dal mio punto di vista, nulla toglie al fatto che possano essere anche una ricerca di tipo religioso. Assolutamente, tutti gli effetti. Poi non è forse l'intento primario, perché, voglio dire, l'intento primario non è un intento, perché non c'è una programmaticità in quello che faccio, è molto spontaneo e sento la necessità di farlo, sento una sintonia con alcuni, con determinati artisti, Otto Dix primo tra tutti, ma come Schiele, come Bacon, come Cosmetura, Bruegel, Bosch. Quindi sento una sintonia e sento l'istinto di riprodurre le loro modalità pittoriche. E quindi il primo intento è puramente istintivo. Esiste un intento religioso, perché io rimango una persona spirituale, rimango una persona cristiana, nel senso che sono profondamente colpito e tutto sommato mi attengo anche al pensiero del Cristo filosofo, figura storica, e meno, direi, forse l'intento narrativo e simbolico. Credo che quello vada più da sé, sia più posteriore e successivo, perché non ho davvero l'intenzione di raccontare una storia. Ho l'intenzione sì di esprimere qualcosa che ho dentro, però anche con i ritratti è stato così. La storia che poi queste opere vanno a raccontare va quasi a posteriori, è quasi qualcosa che non dipende da me. Credo che traspaia, per il discorso che ho appena fatto, per il fatto che è un'espressione molto spontanea e quindi... Ma rispetto appunto ai soggetti che hai scelto, vuoi raccontarci un po' meglio, anche per magari chi non è qui e non li può vedere, che cosa raccontano di te? Cosa raccontano di me? Io ho scelto degli episodi puramente seguendo delle suggestioni, quindi anche in questo caso senza un'idea programmatica dietro, ma semplicemente ripensando, rileggendo i testi evangelici, cogliendo quelle impressioni che io proprio graficamente ho nella testa di come questi episodi si svolgono e con quali tinte, con quali forme. Per quanto mi riguarda, sinceramente, io anche qui mi riaggancio un po' a posteriori con la mia storia. Il filone più nitido che ho individuato e seguito, appunto, è quello della passione del Cristo o degli episodi della sua vita che questa passione, insomma, anticipano in qualche modo. E la scelta della passione in qualche modo è un po' facilona, un po' scontata, perché nel momento in cui la mia ricerca è tutta sul dolore umano, ok, il dolore inteso nella sua manifestazione più acuta e insopportabile, è molto scontato dire che vado a pensare ai temi della passione. In un certo senso è anche sensato che io abbia cominciato con questi temi, poi chissà se continuerò con i soggetti sacri, però al di là di quello non sarei in grado di dipingere un'adorazione dei magi o una presentazione al tempio, perché non c'è quella sofferenza così superficiale e visibile che mi è facile appunto affrontare per riflettere sul mio dolore. E quindi gli episodi che ho scelto appunto raccontano un po' la sua vita, partono da una Madonna che tiene il bambino tra le braccia, passano per, insomma, un paio di episodi della vita pubblica, passano poi per la passione e finiscono con, appunto, il figlio che ritorna tra le braccia della madre in circostanze un po' diverse. Quindi semplicemente voler chiudere un cerchio, voler raccontare una vita in maniera molto sintetica, mostrando quanto il dolore l'abbia impregnata, perché oggettivamente la vita del Cristo è stata impregnata di dolore, e in questo lo trovo emblematico. E onestamente, se devo essere sincero, a posteriori prendere i migliori dei dipinti che ho fatto, basati su episodi che mi hanno colpito, e riconoscere in essi una narrazione sia cristologica che personale. E c'è un quadro in particolare a cui sei più legato rispetto ad altri? Non so se per un tema affettivo o anche solo compositivo. Sono legato ai dipinti in maniere diverse, quindi tu sai bene che alla Madonna con Bambino sono molto affezionato e sono molto restio, per esempio, a venderla, perché è stato il primo soggetto sacro, perché c'è un'intimità, c'è un rivolgersi alla figura materna fatto con gli occhi del bambino, con la prospettiva del bambino, quindi un guardarsi indietro con nostalgia. Ma se dovessi appunto salvarne uno dall'incendio, voglio dire, probabilmente, anche se non è quello che mi è venuto meglio di molto, di gran lunga, appunto il dipinto con la condanna del Cristo, con le tre figure dei dolenti, credo che sia quello che in realtà mi è venuto meglio, nel senso che è più efficace. Perché quello in cui, per esempio, in questa selezione si dice meno, graficamente parlando, però è appunto il dipinto che non so se mi è riuscito di farlo, ma in cui parlo del più alto dolore, nel senso sia del più alto dolore che io abbia mai provato, ma del più alto dolore che mi sia possibile concepire, perché appunto non raffiguro il Cristo, non raffiguro Pilato, bensì raffiguro la reazione di questi tre suoi discepoli all'udire le parole di condanna, perché appunto, stando alla mia esperienza personale, è stato quello il momento più terribile, non tanto il trapasso, quanto il sentirsi dire che questo trapasso accadrà certamente. E tu non puoi farci niente. E tu non puoi farci niente. E ti sembra di cadere nell'incubo, nel senso che la tua percezione della realtà ha uno shift improvviso, la tua percezione del tempo, come dicevamo, ha un cambio improvviso, e puoi semplicemente disperarti, nel senso puoi semplicemente vederti strappare la speranza dalle mani e trovarti schiacciato e annichilito sotto questo dolore. Perché poi è molto questo, per tornare anche alla tua domanda di che racconto c'è dietro e che scelta c'è dietro, sono tutti dipinti, o comunque vorrebbero essere dipinti, in cui viene raccontato questa cosa qua. È un racconto fatto a posteriori, però si racconta la storia di una persona, cioè me stesso, che ha subito questo dolore e reagisce in un determinato modo, che per me è stato ritirarmici, isolarmi, lasciare l'università, lasciarmi alle spalle le relazioni, le amicizie, insomma qualsiasi aspetto della vita comune, lasciarmi alle spalle quella timeline, no, prestabilita, che vorrebbe che tu raggiungessi delle tappe in un determinato tempo, e appunto ritrovarmi in questo tempo sospeso, in questa solitudine, a fare i conti con questo dolore che mi ha trovato impreparato, mi ha trovato a sentirmi sopraffatto. La mia modalità è stata quella di dipingere in questa solitudine, che è insomma una condizione che fortunatamente è proficua per la pittura, però certamente ha avuto tutte le conseguenze del caso, ecco, una prigionia terribile, con conseguenze anche davvero davvero davvero negative, ma tutto sommato appunto la mia reazione è stata questa, e fortunatamente per me è una reazione, un modo di elaborare che poi lascia una traccia, e sono i dipinti, e questa traccia fortunatamente parla da sé. E invece la scelta delle deformazioni è stata dettata, cioè appunto partendo invece, parlando più da un punto di vista tecnico di approccio alla pittura, diciamo, hai già spiegato un po' che ruolo ha la pratica pittorica per te come appunto espressione di te stesso, però appunto avresti potuto rappresentare questi dipinti anche in un modo diverso volendo, no? Quindi immagino ci sia un intento nella scelta un po' sicuramente, diciamo, non so se dire deformazione, ma insomma sicuramente più turbe della sì. rappresentazione. Ah, sicuramente c'è un intento. Volevo dire turbe comunque. Va benissimo. No, perché ok, l'intento di veicolare uno stato d'animo anche attraverso le forme pittoriche, quindi la rappresentazione in un certo modo di un'anatomia, la scelta di alcune tinte, è consapevole, perché non è che sono proprio, cioè vado alla cieca, ok, ho una nozione pittorica. Devo dire che onestamente si torna al discorso di prima di un'espressione spontanea, e quindi è molto semplicemente, in tutta onestà, il fatto che io, studioso, appunto, prima ancora di cominciare a dipingere, nel momento in quando sfogliavo i libri di storia dell'arte, i pittori che mi colpivano erano appunto gli espressionisti, i tedeschi, i ferraresi, Schiele è stato il primo, no, che mi ha colpito in questo modo. E quindi sono i pittori, come penso succeda per tutti, insomma, i pittori, i disegnatori, sono i pittori che ti prendono la coscienza, chissà come, per quale meccanismo, però ti prendono la coscienza, soprattutto la coscienza visuale, e tu cominci a pensare come loro, cominci a pensare alla forma, all'espressione come loro. E quindi, in un certo senso, anche qua parlo di spontaneità, perché mi sarebbe difficile pensare di fare a meno di dipingere con queste deformazioni. Poi, per carità, l'anno scorso, per esempio, con i ritratti, abbiamo visto, cioè vi ho mostrato il fatto che ho uno spettro di azione in cui muovermi, in cui c'è una deformazione anche molto crudele ed intensa, mentre ho anche fatto ricerche pittoriche molto più figurative, con forme pacificate. Tuttavia, qui poi entra l'intento. Nel momento in cui devo rappresentare soggetti sacri, scelgo di farlo anzitutto nella maniera più simile a come mi immagino lo farebbe un 8 Dixon Cosmetura, però soprattutto, e qui entra la consapevolezza, l'intento diventa quello di veicolare nella maniera più sincera che mi riesce la mia percezione del mondo, e specialmente quella nausea che io provo nel guardare il mondo e l'effetto che quella nausea ha sulla forma, che la rovina in un certo senso, rovina l'esperienza, ne cambia le tinte, le rende più aspre, cambia le forme, le rende più spaventose e più ributtanti. È un po', voglio dire, non è proprio letterale la traduzione, evidentemente non ti vedo appunto con un occhio sulla fronte e l'altro sulla guancia, vale. Però, anzi tutt'altro, se posso, però la sensazione che provo, il modo più sincero e diretto che ho di trasmetterlo è questo, appunto, la sensazione del fatto che la realtà ti non ridisca e ti provochi una nausea, come lo farebbe appunto stare in mezzo a una folla di maiali dai tratti connotati diabolici. La sensazione è quella, ecco. E rispetto al rapporto col pubblico, cosa vorresti che, diciamo, si portassero a casa dopo aver visto la mostra, o cosa ti interessa suscitare? Nel senso che per adesso abbiamo parlato molto del tuo processo di creazione dell'arte e quindi di quello che poi vivi tu nel produrla, però poi di fatto, anche solo col fatto che abbiamo deciso di esporre la mostra, per cui chiaramente l'intento è quello anche di creare un dialogo con chi la guarda. Personalmente io sono un sostenitore, un fautore della teoria della morte dell'autore, come dicono gli inglesi, cioè non solo perché appunto desidero il sollievo della morte, ma perché appunto la teoria della morte dell'autore sostiene che entro certe diverse interpretazioni, nel momento in cui un autore, un artista, uno scrittore produce un'opera, essa in un qualche modo assume una propria sua vita, che prescinde un po' dalle intenzioni che egli aveva. Poi è una teoria che viene fuori specialmente quando si parla di autori controversi, quindi vabbè, insomma. Però in realtà è una teoria che a me colpisce e a cui appunto io aderisco, perché in un certo qual senso si torna un po' al discorso di prima, della narrazione, del significato, della simbologia che viene fuori da sé, così è un po' anche per me, nel senso io quando faccio queste esposizioni, ti ripeto spesso, no, il mio lavoro l'ho fatto, ok? E quindi anche lì, cioè, non sempre mi è facile appunto parlarne o insomma continuare a coltivare, a covare la vita di queste opere. Tant'è che le faccio con l'ottica che un giorno morirò e loro continueranno a parlare al posto mio, no? Lo stesso appunto spero adesso che sono ancora in vita, perché mi auguro e mi auspico che ciascuno possa trarne qualcosa in autonomia, in dialogo con esse e solo con esse, anche se poi chiaramente io magari sono in grado di dare degli elementi in più. Quello che da vivo e da essere umano spero di lasciare, appunto, è sempre diverso per ciascuno. Nella mia esperienza è sempre stato la più grande soddisfazione quando mi rendevo conto che una persona o una qualche persona veniva efficacemente e realmente toccata da quello che facevo, e raramente succede effettivamente al contatto esclusivo con l'opera senza il mio contributo, perché è chiaro, sono opere che, va bene, possono piacere, possono essere considerate ben fatte, però insomma più di tanto forse non possono fare. Ho riscontrato che nel momento in cui io poi, fattomi coraggio, messa da parte la vergogna per la mia segretezza, la vergogna per il mio dolore, la vergogna per il mio trascorso, fattomi coraggio, parlo di quello che si nasconde dietro questi soggetti, già con i ritratti, soprattutto adesso, ecco che allora, se qualcuno ha diciamo esperienze simili o comunque la capacità di la possibilità di essere toccato, ecco, viene toccato, perché è l'unica modalità forse per farlo, esercitare una sincerità e una trasparenza che fa sì che, ecco, qualcuno possa sentire qualcosa in comune con la tua, possa sentirsi forse capito, forse incoraggiato, forse anche soltanto toccato, visto, non lo so. Mi è capitato tuttavia che appunto venissero alla fine di mie presentazioni, di mie esposizioni, persone completamente sconosciute a condividere anche momenti molto commossi, la loro esperienza, il fatto che sconosciuti mi condividessero la loro esperienza è una circostanza che non si sarebbe potuta porre probabilmente in quasi nessun altro contesto se non in questo. Quindi sono dei momenti questi, e anche se magari mi succede una volta e basta, in cui dico bene, ne valsa la pena. Non so se c'è qualcuno dal pubblico che vuole fare una domanda. No, perché, ah, prego, allora scusi, deve venire fino a qua, perché per... Beh, la ripeto perché così resta registrato. No, vado io. Beh, anche perché la domanda suppongo sia per te. Scusi, No, nulla. Anzitutto grazie per questa opportunità. È la prima volta che vengo qui e quindi sono novellino. E chiedevo a Giuseppe se abbia mai avuto la tentazione di proporre una scrittura di controcanto sotto i suoi quadri. Cioè, con una scrittura di controcanto si intende un... Un accompagnamento, anche se sì. La cosa che hai appena detto sembra... L'abbiamo fatta, ma qui, non so se... Perché, allora, lì lo... esatto, io credo che, insomma, quello che si intenda sia, diciamo, una scrittura più in senso, cioè, proprio creativo, narrativo, un... Devo dire che, cioè, la risposta più immediata a questa domanda è che mi ritengo più bravo con le immagini rispetto che con le parole. Cioè, questi dipinti, in un certo qual senso, a tutti gli effetti si possono considerare un testo, sì, testo pittorico chiaramente, però un testo. In quanto testo si possono considerare anche delle preghiere, ed è un punto che, su cui forse non abbiamo battuto il ferro, però c'è anche questo, c'è anche il fatto che c'è chi si esprime appunto scrivendo preghiere, c'è chi si esprime religiosamente scrivendo salmi e cantandoli, come può fare magari un musicista, un poeta. Certo. Per me appunto la modalità di racconto e di testualità è sempre stata, almeno quella in cui mi trovavo più a mio agio, quella delle immagini. Sì. Ciò non vuol dire che io non scriva, specialmente insomma diaristica, da ragazzino anche, da ragazzetto anche poesie, e ho sempre in mente di un giorno illustrarle e fare un lavoro di appunto accostamento, sì, sì, di immagini e poesie. Cioè, appunto, ho il desiderio di riprendere in mano le poesie, i sonetti che scrivevo al liceo, e illustrarli con queste scene pittoriche. In questo caso, delle scene evangeliche, devo dire di no, e forse tutto sommato non so se toglierebbero qualcosa, però sicuramente mi piace questo fatto che parlino e venga lasciata la parola soltanto all'immagine, e voglio dire al supporto testuale per l'episodio evangelico, per il commento pittorico. Però sì, sicuramente in mio modo, in questo caso, con questo filone, non le ci vedrei tanto un accostamento testuale, narrativo, testo, espressivo, poetico. Io non mi occupo di arte e non ho competenza particolare, però il quadro, l'unico quadro in cui non c'è un volto che si veda, ma ci sono delle nuche, mi sembra di una potenza veramente emozionante, quindi quel quadro lì chiama, secondo me. Poi è estremamente soggettiva la cosa e mi tengo in questo limite, insomma, no? Di fantasia, rispettando la tua risposta, mi chiedo i presenti che testo, che controcanto andrebbero a scrivere lì, per esempio, se fosse che il visitatore avesse un invito a procedere in, certo, questa è una suggestione che mi interesserebbe molto di più, per esempio, rispetto che appunto a scegliere io un accostamento con testi miei, che ripeto è un ambito, un linguaggio in cui mi sento meno a mio agio, meno efficace anche, molto più volentieri invece accoglierei questa operazione qua, che qualcun altro, che sia il pubblico in generale o sia uno scrittore, un poeta determinato, ci accosti un proprio, perché, anche perché in quello si sposerebbe molto bene anche con il fatto che mi piace anche questo accostamento tra le arti, e quindi mi piace che alle mie esposizioni si suoni, o comunque ci sia questo informarsi a vicenda, quello assolutamente sì. Meno che lo facessi io in entrambi i linguaggi, ecco. Grazie. Grazie mille. E se non c'è nessun altro, forse chiuderei chiedendoti, per rimanere in tema del nostro festival, qual è il tuo rapporto con il tempo? Allora, se devo restare nei confini, nei limiti appunto dell'attività pittorica che svolgo, che è un po' l'oggetto di discussione, allora sicuramente ci sono due ordini di risposta, e uno è più tecnico ed è relativo al fatto che il lavoro pittorico, specialmente il lavoro di metodo rinascimentale, specialmente il lavoro con colori a olio, fa sì che le tempistiche, le modalità, il rapporto col tempo sia molto particolare, dilatato, permetta una riflessione anche più profonda, rispetto a quanto invece non sarebbe con altre tecniche, che mi permetterebbero sicuramente di essere più spontaneo, e quindi non lo so, la psicologa mi incoraggia anche a seguire un filone in cui l'espressione è più spontanea e meno intellettualizzata, perché un'arte intellettualizzata poi insomma supera un po' la sfera del sentimento, dell'emozione, e dice altro, insomma, offusca un po', ecco, la lettura emotiva. Quindi questo dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista invece più ampio e più umano, e ricollegandosi al discorso di prima, di questo tempo che si interrompe o comunque cambia connotati con il lutto, ecco, ci sto lavorando in questo momento, ci ho messo 9 anni a cominciare a capirlo, però sicuramente mi ha aiutato molto questa esperienza pittorica a mettere decisamente in discussione, diciamo, la ritmica e le tempistiche comuni, prescritte, normative, che mi hanno fatto anche provare una grande sofferenza, grandissima sofferenza, perché oltre alla sofferenza del lutto, come ho cercato di rappresentare nella derisione del Cristo, c'è l'enorme sofferenza, enorme sofferenza del vedere il mondo invece fuori di te che scorre seguendo, invece continuando a seguire quella ritmica e quella tempistica prescritta. Poi magari non è vero, non è così vero come tu lo percepisci, però la percezione è quella e provoca una grande sofferenza, e quindi mi ci è voluto tanto, tanto tempo e tanti anni per capire che non poteva essere altrimenti, in un certo senso, che mi era necessario, mi è stato purtroppo necessario entrare in quella modalità, in quella ritmica, in quella tempistica, ma al tempo stesso rendermi conto che è molto ingannevole in realtà quella, appunto, prescritta dal, insomma, dal cronometro della società, per semplificare, no? Perché al di là del fatto che poi ci capita di vedere molte persone che hanno rispettato come un orologio svizzero quelle tappe, essere molto insoddisfatti, infelici, trovarsi appunto a chiedersi, insomma, poi che strada prendere. Io ho l'impressione di avere scontato, certo, questa prigionia, ma di avere molto chiaro adesso, o molto più chiaro di molte persone che conosco, che strada voglio prendere, che strada ho seguito, sto seguendo, come affrontare queste sofferenze e altre e quelle che verranno, cosa sono io, dove voglio andare, come voglio stare. Molti di noi non sanno neanche come vogliono stare, figuriamoci. Io sto cominciando a capirlo, ci ho messo 30 anni, di cui 9 di lutto profondo, però non ci sarei sicuramente arrivato senza questa grossa perdita, sia della persona cara che del tempo, perché uno visto da fuori può essere, almeno per me è stato così, mi è sembrato di perdere tempo, di buttarlo, di bruciarlo. Non è stato così, perché comunque sono venuti fuori dei dipinti, quindi ho prodotto. Però soprattutto, ottimo, ti direbbe la società. Esatto, la società sarebbe anche contenta. Poi quando comincerò a venderli lo sarà ancora di più. Però ho prodotto e sono anche cresciuto in maniera dolorosa. Avrei preferito forse farlo in maniera più coccolata e agevole, però evidentemente era così che doveva andare. Grazie Giuseppe, grazie a tutte voi di essere venute. Grazie a tutte e tutti. E buona continuazione. Ora partirà un DJ set di Stila Live, se volete restare.